brano del Vangelo sono presenti tre generazioni, ognuno ricerca senso e speranza nell'altro. Simeone e Anna sono punto di riferimento, una giovane coppia che ascolta parole anche dure, ma veritiere. Il bambino che viene accolto e diventa speranza per tutti. Bellissimo. Simeone lo prende tra le braccia. È un messaggio forte. I punti estremi si incontrano, si toccano e si amano. Il testo sollecita a pensare il tema della famiglia, poi con due parole ci sta dentro la famiglia umana, la famiglia cristiana. Siamo sollecitati alcune riflessioni, abbiate un po' di pazienza. C'è un discorso che sembra logoro, vecchio, eppur valido per sé. Si dice, la famiglia cosiddetta cristiana si contraddistingue per l'armonia, la concordia, lo spirito di sacrificio, in definitiva per l'amore, dedizione, apertura verso l'altro. Si intreccia indissolubilmente la propria vita secondo un patto di fedeltà. Faccio un passaggio ulteriore. Di fronte all'esperienza ci domandiamo se questo corrisponde alla realtà. Infatti si notano famiglie dove non c'è il sacramento del matrimonio, magari sembra che neppure ci sia la fede in un Dio. Eppure da una scelta di amore autentico può nascere una coppia in perfetta armonia. E si possono d'altra parte notare coppie cristiane, cosiddette del matrimonio cristiano, che hanno teoricamente tutte le carte in regola per costruire una famiglia eccellente. Eppure la loro condizione di vita è talvolta impossibile, per non dire nevrotica, e pare sempre sull'orlo di saltare. Allora il problema che pongo alla riflessione è questo. L'armonia, la concordia, l'amore di una coppia, di una famiglia, sono valori in sé. Scaturiscono dalla vita delle persone perché sono persone. Si possono anche, attraverso una serena educazione preparata alla socialità, capacità di affrontare i propri problemi, magari con l'aiuto di qualcuno, di qualche educatore, di qualche testimone e così via, superano gli ostacoli, maturano una convinzione, vivono una comunione, una condivisione serena, Il loro amore è frutto, diciamo, del loro impegno. Magari Dio li aiuta senza che loro lo sappiano. Vogliono il loro amore senza che derivi necessariamente da una proclamata fede, ma la onestà, la vita operosa. A questo punto voi mi potete interloquire e chiedere: ma allora che cosa resta alla famiglia cosiddetta cristiana, comunità cristiana? Che cosa ha di speciale una famiglia detta cristiana? Se l'amore sereno, la concordia, è frutto dell'operosità e delle scelte delle persone, allora si pone il problema: che cosa resta? Faccio un'ultima considerazione allora. In realtà resta moltissimo, un campo immenso e nuovo. La famiglia come chiesa. Mi spiego attraverso dei riferimenti esemplificativi. Il sacramento del matrimonio non è solo un incontro fra due persone, ma è un incontro con Cristo. Solo secondariamente diventa un atto di consacrazione, di un vincolo davanti all'altare. Da quel momento due persone, uomo e donna, hanno scelto di andare incontro a Cristo tenendosi per mano. Cioè hanno scelto di essere chiesa dentro la casa. E si introducono i figli, i bambini, che si preparano ad essere domani adulti con la loro fede. C'è un passaggio che non corre ancora dentro nei discorsi un po' ufficiali. Fingiamo di essere un pochino eretici, ma non tanto. Dove sta la novità della cosiddetta famiglia cristiana? I genitori esercitano il sacerdozio. Quando in casa i figli cominciano ad avere il problema della ricerca di Dio, del senso della vita, cominciano a scoprire dentro di se stessi un qualcosa che li divide dentro se stessi. Comincia a emergere il problema del senso trasparente, morale, dell'agire. Non è che li porti in chiesa. È lì, dentro le mura di casa. È lì che c'è chiesa e si esercita il sacerdozio. Sono il padre e la madre i sacerdoti. Rimettere i peccati, è lì che li aiutano a scoprire il senso del perdono. Quindi, nel matrimonio cristiano lo spazio è molto grande. Questo cercare insieme Cristo. Quello che si realizza in famiglia, notate il passaggio, è su un'altra misura quello che noi osiamo portare all'altare. Quello che si realizza in famiglia è su un'altra misura quello che noi osiamo portare all'altare. Allora tra la casa e l'altare la dimensione è molto simile. In famiglia il padre e la madre possono spezzare il pane, la cultura, l'esperienza, la preghiera, il perdono, la condivisione di una gioia, la fatica di affrontare problemi e i contrasti della vita. Poi qui si riporta tutto qui all'altare, perché la grande cena del Signore, la grande preghiera, la grande condivisione non è in contrasto con quello che avviene in famiglia, il che vuol dire che anche i problemi che dentro la casa possono disturbare, possono far soffrire, vengono posti qui. Non è che veniamo candide colombe qui all'altare. Chiudo. La famiglia cristiana di originale ha proprio questo: esercitare un sacerdozio. E quanto si può augurare ai giovani che vogliono formare una famiglia, e anche a tutti coloro che si amano. Gloria a Dio nell'atto dei piedi.